pare che ogni tanto ti viene presso solo, proprio come una via, beh presa curva soia, la gelosia è nuvente, che non si smorza mai, ma sta pensando ancora o non mi pensa sai, o non mi pensa sai. Si sente niente all'aria, 200 gardelli, canta nenzine, nenzine, all'aria tua vicina. E tu che la mia, rosa e coralla insieme, mi mettere in tuo cuore mille male pensieri. Yeah.